Che cos'è questo casino? What's that noise? Questi erano i Cold Cut, la sigla di Uptown Rockers, e siete ancora una volta sintonizzati su Railroad Radio Station. I Cold Cut, Matt Black e Jonathan Moore, coloro che fondarono anni fa l'etichetta Ninja Tune, che proprio quest'anno ha festeggiato i suoi diversi anni di storia con un'uscita bestiale di un cofanetto con allegati dentro, oltre a 6 CD, anche dei 45 giri in vinile inediti e un bellissimo libro. Ma come vi ho detto, questa è Uptown Rockers, io sono Drago DJ e adesso vi faccio ascoltare subito un bellissimo pezzo dalla mia collezione. Better Than Evil, dalla colonna sonora del film Blaxploitation Gordon's War, datato 1973 su Buddha Records. E come già vi immaginate, questa puntata la dedicherò totalmente alle colonne sonore, quindi senza togliere spazio alla musica, passiamo subito al prossimo pezzo, Money Runner, dall'ispettore Callaghan. We'll be right back. Money Runner, un'altra soundtrack che rese celebre il filone poliziottesco del genere di cinema denominato Blaxploitation, pezzo eseguito da John Schroeder, ma scritto niente po' di meno che da Quincy Jones nel 1972. Ma dagli Stati Uniti veniamo a noi, al nostro paese, all'Italia, e con il prossimo pezzo che vi andrò a far ascoltare. Sto parlando del tema di Milano Calibro 9, un film del maestro Fernando Di Leo, interpretato tra gli altri da fortissimi attori come Gastone Moschin e Mario Adorf, tratto dal romanzo di Giorgio Scerbanenko. E il pezzo che andiamo a sentire è stato scritto da Luis Bacalov, un compositore, un grandissimo compositore, e qui viene eseguito da gli Osanna, un gruppo partenopeo, un gruppo di Napoli che cavalcava quel genere di successo chiamato rock progressive. Ecco a voi gli Osanna e con Milano Calibro 9. Sempre sintonizzati su Uptown Rockers, questi erano gli Osanna dal tema di Milano Calibro 9. ma avremo modo di approfondire più avanti nel corso delle nostre prossime puntate le doti di questo magnifico gruppo, gli Usanna. Ma andiamo a seguire un'altra colonna sonora, un altro film che ha fatto la storia di questo genere B-movie. E sto parlando di Shaft, un film che ha fatto talmente tanto successo che i suoi produttori addirittura ne hanno fatto ben, mi pare, ben 3 serie. E qui infatti andiamo a una serie secondaria. Ricordo innanzitutto anche che Shaft è stato il primo film, la prima anzi colonna sonora di un film composta da neri ad aver vinto un Oscar per appunto la colonna sonora. E come vi dicevo poc'anzi, andiamo a sentire uno spezzone di una canzone una puntata secondaria di Shaft, non quindi il primo Shaft, ma sto parlando di Shaft in Africa, composta tra l'altro da Isaac Hayes e Johnny Pate. Isaac Hayes che era anche tra gli interpreti di questo film. Ecco a voi, You Can't Even Walk in the Park, Johnny Pate. Su Railroad Radio Station, questa è la musica della Linin City e a questo giro ho sistemato un po' meglio la regia e adesso ho anche un antipop, il famoso ventaglio che viene posto davanti al microfono per evitare la distorsione delle P. Ma mentre qualcuno di voi si starà già immaginando gli scenari di Starsky & Hutch dell'ispettore Callaghan, siamo all'inizio degli anni 70 e restiamo sempre in questo periodo perché il prossimo pezzo è di un autore eccezionale, il pianista Deodato, e non è proprio una vera colonna sonora ma è una rivisitazione di un tema famosissimo del film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Vedendo nelle note del vinile noto che il gruppo che segue Deodato, il compositore di questa canzone, è veramente un super gruppo, perché vedo che al basso c'è il mitico Ron Carter, alla batteria non abbiamo niente poco di meno che Billy Cobham e alle percussioni Airto, un altro brasiliano. Il pezzo in questione si intitola Zarathustra 2001 e è del 1973, usciva all'epoca per CT ed è una versione originale direttamente dalla mia collezione personale. Ecco a voi Deodato. chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso, ricordo che siete sulle frequenze di Railroad Radio Station e questa è un'altra puntata di Uptown Rockers. Per chi invece sta ascoltando il podcast, ricordo che la diretta va in onda ogni mercoledì alle 22 con replica la domenica alle 21. E dopo questo excursus in... mi ero dimenticato una cosa fra i musicisti che accompagnavano Deodato in questo pezzo. Visto che la sua chitarra, sto parlando di John Tropea, era emblematica nel solo, volevo proprio ricordare questo musicista. Ma adesso colgo l'occasione per parlare di Ice-T. Direte voy, cosa c'entra nella Blaxploitation? Bene, Ice-T ormai è un attore navigato, tra i suoi film ricordo con piacere New Jack City, ma lo ricordo anche in una serie che è più attuale, di cui sono un accanito fan, sto parlando di Law and Order. Un altro motivo per cui ho scelto Ice-T come prossimo autore della canzone che vi farò ascoltare è perché proprio in questi giorni si teneva l'anniversario della Zulu Nation, l'organizzazione creata da Africa Bambaataa e che si dedica alla diffusione della cultura hip hop in tutte le sue forme e sfumature. Appunto Ice-T è uno dei componenti più anziani della Zulu Nation e questo pezzo che si titola I'm Your Pusher prende un campione dalla colonna sonora di Superfly di Curtis Mayfield, appunto di Pusherman, questo è il titolo della canzone originale da cui è tratto il campione. Qui viene accompagnato da African Islam e dal mitico Donald D. Ecco a voi Ice-T e I'm Your Pusher. Yo, what's up, man? I need to get high, man. I need to get hold of some big time dope, man. You know I can get a key. I know we can get an LP. LP, man. If you went crazy, man, I'm talking about some dope, man. I with a 5-0. I can hook you up with a 12-inch. 12-inch, man, you done went crazy. You don't even know what time it is. Out here on the streets, you don't know what time it is, man. You's a fool. Yo, homeboy, you a fool. You don't know what time it is out here messing up your mind. You know what I'm saying? This is Ice-T talking to you, boy. I'ma tell you what time it is. Yo, it's time for me to pump up the volume. No problem, the record's revolving. Evil's the mixer, I'm the rap trickster. Paparazzi's on the bum rush for pictures. Ice, cooling yo colder than ever. Punk executioner, he pull the lever. Rotate the wax, then cut and axe the tracks. Push up the levels till the red light's max. Don't try to size up, you better wise up to the rap criminals. We're on the rise up. We're selling dope, till breaks, no beepers needed. For this drug deal, I'm the big wheel. The dope I'm selling, you don't smoke, you feel. Out on the dance floor, on my world tour. I'm selling dope in each and every record store. I'm the kingpin when the wax spins. Crack a smack or take you to a show in for way. You wanna get high? Let the record play. Oh man, I like this dope here, man. It's feeling alright, boy. What'd you say your name was, man? I know you're loving this drug as it's coming out your speakers. Bass through the bottoms, highs through the tweeters. But this bass, you don't need a pipe, just a tempo that you're doing. So stupid crack would just ruin your natural high. Why, that ain't fly, and anyone who says it is lies. Move like I knew you would, like I knew you could. And if you ain't cracked out, then I know you should be able to give me a clap to match exact with the track. And since I know you ain't, I expect that. Oh, now this jam is lit, it's like the ultimate. People high off dope, but still physically fit. I make $1,000,000, pack my dough in trucks from selling dope beat, dope rhymes, dope cuts. I'll be the biggest dope dealer in history, cause all the fly will be high off that Ice-T. Oh man, this dope is all right, man. I got to get back with you, man. Let me get your number, man. bring it to boil, evilly rock it up. You want in? I don't think you got enough. Last suckers cross, syndicate shot them up. Cops found them in the lake, bottom up. I don't play when it comes to my dope. I check my lyrics close, like with a microscope. I don't clean them up with no Ivory soap. I leave them hard and pure, hope that you can cope. Cause you might OD if you overdrive. This record tape a CD because the sound I created on this wax is like a chemical. And the knowledge I give makes me invincible. Oh, Mr. Dope Man, I'm loving you, man. You got it going on, man. What else you got? I got some of that Kumo D. Oh, yeah, man. I want some of that, man. Got some Dougie Fresh. Oh, give me an ounce of that, man. I want that all night long. Got some Eric B and Rakim. Oh, that is some real dope right there. Got some of that LL Cool J. Nah, man. I don't want none of that, man. You keep that, man. Got some Boogie Down Productions, KRS-One. Oh, now you're talking, man. Come on. Public Enemy. Yeah, don't stop, don't stop. Biz Markie. Make the music with your mouth, Biz. I love it. Cops just don't know what to do, because my dope breaks through no matter what they do. My stuff gets to you, kicking on the boulevard. My tempo's hyped and hard, I don't ask, the ice just Bogart. Sire Records puts me out with Warner Brothers clout. My dope hits the street with no doubt, evilly adds the cut, then removes it, is checks for purity, and then approves it, and then you get it, try it, and like it, and if it ain't potent, we remix it and spike it, to bring you to pure dope, not a noose in the rope, cause if you're doing crack, you're on death row, you're just a toy punk, then mess with that junk, you want some real dope, hell in his life, 100% legit, so get real fool, and try some real hit. Word up my brother, you got me high as a kite, I feel good tonight, Ice-T man, you alright. Salta la puntina ed il disco si incanta, ma questi sono inconvenienti del mestiere per chi ha a che fare con il vecchio vinile. Questo era Ice-T con I'm Your Pusher e adesso ritorniamo alle colonne sonore e ritorniamo in Italia a un gruppo che delle colonne sonore degli anni 70 dei film B-movie ha fatto un po' la sua fede. Sto parlando di Calibro 35, il gruppo che forse mi ha ispirato ultimamente a fare una puntata dedicata alle soundtrack. Calibro 35 che ho visto qualche settimana fa a Rebeldia durante il concerto che un concerto contro lo sgombero di questo centro sociale a cui va tutta la mia solidarietà. Milano Calibro 35, sì, scusate, Calibro 35 che mi hanno appassionato molto, mi sono comprato il vinile e qui ho estrapolato un pezzo, il primo pezzo tra l'altro del lato A, Eurocrime, che è veramente significativo per chi è appassionato dei poliziotteschi. Ve lo vado subito a far ascoltare e vi ricordo che comunque dopo la puntata va in onda, anzi la puntata non finisce qui perché va in onda il super mixatone che ho composto questa settimana. Per chi poi avesse delle domande semplicemente vuole consultare la tracking list dei pezzi che ho inserito stasera, mi può scrivere su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, o diventare direttamente un nostro amico su questo social network. Basta che digitate Railroad Radio Station o addirittura ci andate direttamente dal sito che trovate su No Blogs. Ringrazio anche Paolo che è il nostro webmaster e vi faccio ascoltare i Calibro 35. 22:35 e Rebel D ancora trema, e trema anche la Linen City dopo lo splendido concerto che questa band ha eseguito poche settimane fa nella nostra cittadina. Ma abbiamo ancora il tempo per altri due pezzi prima di andare con il mixato, e quindi niente, facciamo veloci. E sono andato a scovare nella mia libreria una colonna sonora rieditata, praticamente sto parlando del film di Spike Lee Fa la cosa giusta. Non è la colonna sonora originale, ma è la colonna sonora orchestrata dal padre di Spike Lee. Sto parlando di Bill Lee, che è un noto jazzista americano, che qui con l'aiuto di Branford Marsalis ha composto la versione jazz della colonna sonora di Fa la cosa giusta. Questo tra l'altro è un disco molto raro, ma non voglio rubare il tempo alla musica, e quindi vi faccio subito sentire questo swing jazz dal titolo Mookie, che era anche un personaggio del film Fa la cosa giusta. The Right Thing, Fa la cosa giusta, e questi erano Branford Marsalis e Bill Lee, e padre del più famoso regista Spike Lee, che rivisitavano la colonna sonora dell'omonimo film. Ma andiamo velocemente all'ultimo pezzo, così vi saluto, e anzi innanzitutto saluto tutti quelli che ci supportano e chiaramente ci ascoltano. Sto parlando di Radio Shake, Ragnar Paisa e Ritmo Grooviera, tutte trasmissioni che vanno in diretta sia in streaming che nella vera radio, e poi anche La Nozione, il blog La Nozione del Tempo, Rap Maniacs, le crew di Black Friday, New Combo, San Antonio 42, Inventati.org che ci ospita. Prossimo pezzo e ultimo pezzo della serata sono i Ghetto Brothers con Ghetto Brothers Power, un pezzo che dedico ai tempi delle gang americane del Bronx, della pacificazione, ma anche di Los Angeles, dei diritti civili, della resistenza afroamericana. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo mercoledì. Per chi invece ci segue in replica, la domenica alle 21, il mercoledì invece siamo alle 22. Questa era Uptown Rockers, io sono Drago DJ, sempre in diretta su Radio Streaming Railroad Radio Station. We're gonna take you higher, we're getting older. Rise.